Palloni e palloni. Vorrei sapere, Mary Poppins, domandò la signora Banks, entrando in fretta una mattina nella stanza dei bambini, se avreste il tempo di farmi qualche commissione? E rivolse a Mary Poppins un sorriso nervoso, come se non fosse certa di ottenere una risposta favorevole. Mary Poppins volse le spalle al fuoco, ove stava scaldando gli abiti di Annabella. Potrei, rispose in tono non troppo incoraggiante. Oh, capisco, disse la signora Banks e assunse un'espressione ancora più nervosa. O anche non potrei, continuò Mary Poppins e scuoteva indaffarata una giacchettina di lana che poi appese al parafuoco. Bene, nel caso aveste il tempo, ecco la lista e i soldi. Se c'è un resto, potete spenderlo per voi. La signora Banks pose il denaro sul cassettone. Mary Poppins non rispose e si contentò di arricciare il naso. Oh, continuò la signora Banks, ricordando all'improvviso qualcosa. E i gemelli dovranno andare a piedi oggi, Mary Poppins. Robertson Hay stamattina si è seduto nella carrozzina, l'ha scambiata per una poltrona, perciò ha bisogno di essere accomodata. Potete farne senza e portare Annabella in braccio? Mary Poppins aprì la bocca e la richiuse di colpo. Io, osservò seccamente, posso fare tutto e anche di più, se voglio. Lo so, ammise la signora Banks mentre si dirigeva verso la porta. Voi siete un tesoro, un perfetto tesoro, un assoluto, meraviglioso e raro tesoro. La sua voce si spense lontana mentre scendeva in fretta le scale. Eppure qualche volta desidererei che non lo fosse, disse la signora Banks al ritratto della bisnonna mentre faceva la polvere in salotto. Mi fa sentire piccola e sciocca, come se fossi ancora una bambina, e non lo sono. La signora Banks scosse la testa e tolse un granello di polvere alla mucca di ceramica che era sul caminetto. Io sono una persona molto importante, sono madre di 5 bambini, e la lo dimentica. Proseguì nel suo lavoro ruminando tutte le cose che avrebbe potuto dire a Mary Poppins, ma sapeva che mai ne avrebbe avuto il coraggio. Mary Poppins mise la lista e i soldi nella borsa e, calzatosi il cappello, uscì in fretta da casa con Annabella fra le braccia. Jane e Michael, ciascuno con un gemello per mano, la seguivano il più velocemente possibile. Avanti di buon passo, per favore. Ella li incitò con un gesto brusco. Si affrettavano a camminare e si tiravano dietro i poveri gemelli con un rumore di passi strascicati sul marciapiede. Le braccia di Barbara e Giovannino erano quasi slogate. Jane e Michael avevano un'unica preoccupazione: tenere dietro a Mary Poppins e vedere cosa avrebbe fatto col resto dei soldi della mamma. 2 pacchetti di candele, 2 chili di riso, uno di zucchero greggio e 3 di farina, 2 scatole di conserva di pomodoro e una scopetta per il camino. Un paio di guanti per la cameriera, un mezzo bastoncino di ceralacca, un sacchetto di polenta, un accendifuoco, 2 scatole di fiammiferi, 2 cavolfiori e un mazzo di rabarbaro. Mary Poppins, entrando in fretta nel primo negozio al di là del parco, lesse a voce alta la lista. Il droghiere, che era un uomo grasso, calvo e asmatico, annotò gli ordini più in fretta che poté. Un sacchetto di guanti per cameriera, scrisse. E leccò nervosamente la punta mozza della sua piccola matita. Di polenta, ho detto, lo corresse Mary Poppins bruscamente. Il droghiere si imporporò come una fragola. Oh, mi dispiace, non volevo certo offendervi. Bella giornata, vero? Sì, mi sono sbagliato. Un sacchetto di guanti. No, di polenta, prese nota in fretta e aggiunse. E 2 scatole di scopette da camino. Di fiammiferi, lo rimbeccò Mary Poppins. Le mani del droghiere tremarono sul banco. Oh, ma certo, deve essere il lapis. Si direbbe che scriva tutto a rovescio, devo cambiarlo. Fiammiferi, ma certo. E poi, dicevate? Guardò in su nervosamente e giù di nuovo, fissando il suo mozzicone di lapis. Mary Poppins, sciorinata nuovamente la lista, la rilesse forte con una voce piena di impazienza e di collera. Mi dispiace, si scusò il droghiere mentre ella arrivava alla fine della lista, ma il rabarbaro è terminato. Vorreste delle prugne di damasco? No, davvero. Un pacchetto di tapioca. Oh no, Mary Poppins, la tapioca no, l'abbiamo mangiata la settimana scorsa, la interruppe Michael. Mary Poppins lanciò un'occhiata prima a lui e poi al droghiere, e dallo sguardo dei suoi occhi tutte e due compresero che non c'era scampo. Tapioca aveva detto e tapioca doveva essere. Il droghiere, imporporandosi più che mai, andò a prenderla. Non ci sarà nessun resto se continua così, osservò Jane e guardò desolatamente la pila di acquisti che si ammucchiava sul banco. Avrà abbastanza resto per un sacchetto di caramelle, rispose Michael cupamente, mentre Mary Poppins porgeva i soldi al droghiere. Grazie, ella disse mentre il droghiere le porgeva il resto. Grazie a voi, rispose egli educatamente. E si appoggiò con le braccia sul banco. Le sorrise in un modo che voleva essere piacevole e continuò: fa bello, eh? Con orgoglio, come se lui, proprio lui, avesse completa responsabilità del tempo e quel giorno avesse ordinato una bella giornata apposta per lei. Noi vogliamo la pioggia, disse Mary Poppins e chiuse la bocca e la borsa nello stesso tempo. È giusto, si affrettò a dire il droghiere che non voleva contraddirla. La pioggia è sempre piacevole. Mai, replicò Mary Poppins, assestandosi più comodamente Annabella sul braccio. La faccia del droghiere si rabbuiò. Nulla di quel che aveva detto andava bene. Spero, osservò mentre apriva cortesemente la porta a Mary Poppins, che avremo ancora l'onore di avervi come cliente, signora. Buongiorno, rispose secca Mary Poppins. Il droghiere sospirò. Ecco, egli disse frugando in fretta dentro una scatola vicino alla porta. Prendete questi. Non intendevo offendervi davvero, proprio davvero desideravo soltanto farvi cosa gradita. Jane e Michael tesero le mani e il droghiere lasciò cadere tre cioccolatini nella mano di Michael e due in quella di Jane. Uno per ciascuno di voi due, uno per i più piccini e uno per... Con un cenno del capo indicò la figura di Mary Poppins che si allontanava. Per lei? I bambini ringraziarono il droghiere e corsero in fretta dietro a Mary Poppins, mangiando a bocca piena i cioccolatini. Cosa mangiate? Ella domandò, scorgendo l'orlo scuro che si era formato attorno alla bocca di Michael. Cioccolatini! Il droghiere ce ne ha dato uno per ciascuno e uno per te. Tese l'ultimo cioccolatino. Era molto appiccicoso. Oh, guarda che impudenza! Brontolò Mary Poppins, ma afferrò il cioccolatino e lo mangiò in un boccone, come se, malgrado tutto, le fosse molto gradito. Hai molto resto? Domandò Michael ansiosamente. Ce n'è e non ce n'è. Entrò dal farmacista e ne uscì con una scatola di sapone, una pomata e un tubo di dentifricio. Jane e Michael, che attendevano coi gemelli all'ingresso, sospirarono profondamente. Ben presto lo sapevano, i soldi della mamma sarebbero finiti. Avrà appena appena un po' di resto per comperare un francobollo, il che non è molto interessante, disse Jane. Ora dal signor Tip, disse in tono asciutto Mary Poppins. Da una mano le pendevano i pacchetti del farmacista e con l'altra reggeva saldamente Annabella. Ma cosa possiamo comprare là? Domandò Michael disperato, perché ben pochi soldi tintinnavano oramai nella borsa di Mary Poppins. Carbone, 2 quintali e mezzo, ella rispose, camminando avanti in fretta. Ma ci bastano i soldi? Certo che no. E allora, Mary Poppins, cosa ci andiamo a fare? Michael guardava costernato. Andrà sul conto? Jane e Michael si sentirono talmente sollevati che saltarono dietro a lei, trascinandosi dietro al trotto Barbara e Giovannino. Bene, questo è tutto? Si informò Michael dopo che il signor Tip e il suo carbone furono lasciati indietro. Dal pasticcere, ordinò Mary Poppins, esaminando la lista e gettando un'occhiata a una porta scura. Attraverso la vetrina poterono vederla che additava una fila di amaretti. Il commesso le porse un grosso involto. Ne ha comprati perlomeno 1 chilo, osservò Jane tristemente. In genere, la vista di qualcuno che comperava gli amaretti la deliziava, ma oggi avrebbero desiderato entrambi con tutta l'anima che non ci fosse più un amaretto in tutto il mondo. Dove ora? Domandò Michael e saltellava su una gamba e sull'altra, nell'ansietà di sapere se ci fosse ancora un po' di resto. Era sicuro che non ce ne sarebbe stato più e tuttavia sperava ancora. A casa, rispose Mary Poppins. Le loro facce divennero scure. Non c'era resto, neppure una monetina. Altrimenti Mary Poppins l'avrebbe certamente spesa. Ma Mary Poppins, mentre teneva l'involto di Amaretti appoggiato sul petto di Annabella e camminava avanti a grandi passi, aveva una tale espressione sul volto che essi non osarono fare alcun commento. Sapevano solo che per una volta la governante li aveva delusi e sentivano che non potevano perdonarglielo. Ma questa non è la strada per andare a casa, piagnucolò Michael, trascinando i piedi sul marciapiede. Oh, guarda un po', il parco non è sulla strada di casa? Ella domandò con uno sguardo inquieto. Sì, ma non c'è un modo soltanto di traversare il parco, ce ne sono diversi, soggiunse, e li condusse da una parte del parco che non avevano mai visto prima. Il sole lasciava cadere i suoi raggi tiepidi, gli alti alberi si inchinavano sulle inferriate e le foglie fremevano. Su, fra i rami, due passeri si disputavano un pezzo di foglia. Uno scoiattolo saltellò lungo la balaustrata di pietra e si rizzò sulle zampe posteriori. Ma oggi queste cose non avevano importanza. Jane e Michael non se ne interessavano. Tutto ciò cui potevano pensare era il fatto che Mary Poppins aveva speso tutti i soldi in cose insignificanti e che non aveva nessun resto. Stanchi e contrariati si trascinavano dietro a lei verso i cancelli. Sopra l'entrata, un'entrata che essi non avevano mai visto prima, si innalzava un grande arco di pietra in cui erano meravigliosamente scolpiti un leone e un unicorno. E sotto l'arco stava una donna vecchia, con una faccia grigia come la pietra e grinzosa come una noce. Sulle sue piccole vecchie ginocchia teneva un vassoio colmo di qualcosa simile a nastrini arrotolati e sopra il suo capo, legato saldamente alle cancellate del parco, si agitava, dondolava, rimbalzava un gruppo di luminosi palloncini. I palloni!» gridò Jane, sfilando la mano dalle dita tenaci di Giovannino e corse verso la vecchietta. Michael le balzò dietro, lasciando Barbara sola in mezzo al marciapiede. «Ebbene, miei cari anatroccoli?» chiese la donna dei palloni con una tremula voce roca. «Quale volete? Scegliete pure, e con comodo!» Si spinse in avanti e agitò innanzi a loro il suo vassoio. «Siamo solo venuti a guardare», Jane spiegò. «Non abbiamo soldi». «Che gusto c'è a guardare un pallone? Bisogna che sentiate un pallone. Bisogna che teniate un pallone. Bisogna che conosciate un pallone. Venire a guardare. Che gusto ci provate?» La voce della vecchietta tremava come una fiammella. Si agitò sul suo panchetto. Jane e Michael la guardarono sfiduciati, sapevano che diceva la verità, ma che potevano fare? «Quando ero ragazza», proseguì la vecchietta, «la gente capiva veramente i palloni, non si contentava di venire a vederli, li prendeva, sì, li prendeva. Non c'era un bambino che uscisse da questi cancelli senza il suo bravo pallone. A quei tempi non avrebbero insultato la donna dei palloni, contentandosi di guardare e passare oltre». Rovesciò la testa all'indietro e guardò amorosamente i palloni che oscillavano sopra di lei. «Ah, miei amori e mie colombe», ella disse, «non vi capiscono più nessuno. Ah, la vecchietta vi comprende. Siete passati di moda ora, nessuno vi desidera». «Noi ne desideriamo uno», disse Michael con risolutezza, «ma non abbiamo i soldi. Lei ha speso tutti i soldi della mamma in...» «Chi è lei?» domandò una voce dietro alle sue spalle. Michael si volse e arrossì. «Intendevo dire che tu...» cominciò nervosamente. «Parla con rispetto, sai?» osservò Mary Poppins. E tendendo il braccio sopra la spalla di lui, pose una monetina sul vassoio della donna dei palloni. Michael guardò a occhi spalancati la moneta rilucente in mezzo al gruppo variopinto di palloni sgonfi. Allora era rimasto un po' di resto, esclamò Jane e si rammaricò di aver giudicato così male Mary Poppins. La donna dei palloni, con gli occhietti scintillanti, raccolse la moneta e la guardò a lungo. Lucente, lucente! Ella gridò. Non ne vedevo una così da quando ero ragazza. Alzò la testa verso Mary Poppins. Desiderate un pallone, bella giovane? Sì, per favore, Mary Poppins rispose con altezzosa gentilezza. Quanti, anatrocola mia, quanti? Quattro. Jane e Michael, che non stavano più nella pelle, si voltarono e l'abbracciarono. Oh, Mary Poppins, dici davvero uno per ciascuno? Davvero? Davvero? Spero di dire sempre quello che dico, ella replicò con una sprezzante aria di superiorità. Si slanciarono verso il vassoio e cominciarono a rigirare i colorati palloni sgonfi. La donna dei palloni fece scivolare la moneta in una tasca dell'abito. Eccoti qua, stella mia, disse, dando alla tasca un amorevole colpetto. Quindi, con mani tremanti per l'eccitazione, si occupò dei bambini. Piano, piano, con attenzione, miei cari anatroccoli, li ammonì. Ricordatevi, vi sono palloni e palloni. Fate la vostra scelta e fatela con calma. Più di un bambino ha scelto male un pallone. E in seguito la sua vita non è stata più la stessa. Prendo questo, esclamò Michael, scegliendone uno giallo con dei segni rossi. Bene, lascia che te lo gonfi e così potrai vedere se è quello giusto, disse la donna dei palloni. Prese il pallone dalle mani di Michael e con un soffio poderoso lo gonfiò. Zip! Eccolo lassù. Non si poteva quasi credere che una persona così esile potesse avere tanto fiato in corpo. Il pallone giallo, con i nitidi segni rossi, oscillò all'estremità del filo. Ma guardate, esclamò Michael a occhi spalancati, c'è scritto sopra il mio nome. E in realtà i segni rossi sul pallone erano lettere che formavano le due parole Michael Banks. Ah, chiocciò la donna dei palloni, cosa ti avevo detto? Hai scelto con calma e la scelta è stata buona. Guarda se è giusta anche la mia. La pregò Jane e porse alla donna dei palloni un pallone blu. Ella soffiò e lo lanciò in alto, e sull'azzurro pallone apparvero le parole Jane Caroline Banks in larghi caratteri bianchi. Ti chiami così, anatroccola mia? Chiese la donna dei palloni. Jane assentì. La donna dei palloni rise fra sé e sé con un'acuta, tremula, stridula risata, mentre Jane prendeva dalle sue mani il pallone e lo faceva ballonzolare in aria. Me, me! Gridarono Barbara e Giovannino, ficcando le manine grassocce tra i palloni sgonfi. Giovannino ne tirò fuori uno rosa e, dopo che vi ebbe soffiato dentro per farlo salire, la donna dei palloni sorrise. Là, sul pallone, si potevano leggere chiaramente le seguenti parole: Giovannino e Barbara Banks. Un pallone per tutti e due perché sono gemelli. Ma, disse Jane, non capisco come lo sapevi. Non ci hai mai visti prima. Ah, mia cara anatroccola, non vi ho forse detto che ci sono palloni e palloni e che questi sono extra, speciali? Ma sei stata tu che vi hai scritto sopra i nostri nomi? Domandò Michael. Io? Chiocciò la vecchietta. Non certo io. E chi allora? Fammi un'altra domanda, anatroccolo caro. Tutto quello che so è che i nomi sono scritti là. E c'è un pallone per tutti a questo mondo, basta scegliere come si deve. Uno per Mary Poppins anche? La donna dei palloni piegò la testa da un lato e guardò Mary Poppins con un curioso sorriso. Lasciamola provare. Si raddrizzò un po' sul suo seggiolino. Scegliete pure e fate con comodo, scegliete e guardate. Mary Poppins arricciò il naso con aria di importanza. La sua mano restò un attimo sospesa sopra i palloni sgonfi e finalmente si decise per uno rosso. Lo tenne discosto da sé con il braccio teso e fra lo stupore dei bambini il pallone si gonfiò pian piano d'aria di sua propria iniziativa. si gonfiò finché divenne come quello di Michael. Ma invece di fermarsi, continuò a gonfiarsi fino a diventare 3 volte più grande degli altri palloni. E vi apparvero in lettere d'oro le due parole: Mary Poppins. Il pallone rosso ondeggiò nell'aria. La vecchietta vi legò un filo e lo porse con una roca risata a Mary Poppins. Su nell'aria danzavano i 4 palloni, davano strattoni al filo come se desiderassero liberarsi dagli ormeggi. Il vento li afferrò e li sospinse avanti e indietro verso nord, sud, est e ovest. Palloni e palloni, miei cari anatroccoli, c'è un pallone per tutti, basta scegliere bene, gridò giocondamente la vecchietta. In quel momento un gentiluomo in cilindro, entrando dai cancelli del parco, girò attorno lo sguardo e notò i palloni. I fanciulli lo videro trasalire leggermente, quindi avvicinarsi in fretta alla donna dei palloni, fece tintinare i soldi in tasca e posò una moneta sul vassoio. Scegliete pure e fate con comodo. Ne prese uno marrone e la donna dei palloni vi soffiò dentro le parole: l'onorevole Guglielmo Giambattista Spellicciati, apparvero a caratteri verdi. Mio Dio! Esclamò il gentiluomo anziano. Mio Dio! Questo è il mio nome! Avete scelto bene, mio caro anatroccolo, palloni e palloni, disse la vecchietta. Il gentiluomo fissò il suo pallone mentre tirava dolcemente il filo. Straordinario! Disse e si soffiò il naso rumorosamente. 40 anni fa, quando ero ragazzo, cercai di comperare qui un pallone, ma non vollero accontentarmi. Dissero che non potevano comperarmelo. 40 anni, e il pallone mi ha aspettato per tutto questo tempo, veramente straordinario. E se ne andò in fretta, picchiando contro una panchina, perché i suoi occhi erano fissi sul pallone. I bambini lo videro fare dei piccoli salti in aria per l'emozione, mentre si allontanava. Guardatelo! Gridò Michael perché il gentiluomo saltava sempre più in alto, ma in quel momento il suo pallone cominciò a tirare il filo ed egli si sentì sollevare da terra. Oi, oi, com'è buffo! Anche il mio sta facendo così! Palloni e palloni, miei cari anatroccoli! Ripeté la vecchietta e scoppiò nella sua roca risata mentre i gemelli, tenendosi entrambi attaccati all'unico filo, si sollevavano da terra. Me ne vado, gridò Jane, che si sentiva trasportare in alto. A casa, per favore, intimò Mary Poppins. Immediatamente il pallone rosso si innalzò, trascinandosi dietro Mary Poppins. Su e giù ella ondeggiò con Annabella e i pacchetti fra le braccia. Attraverso i cancelli e lungo la strada, il pallone rosso di Mary Poppins la trasportò. Il suo cappello ben assestato in testa, la chioma in perfetto ordine e i pacchi che dondolavano in aria con la stessa sicurezza con cui abitualmente camminavano per terra. Jane e Michael e i gemelli, trascinati su e giù dai palloni, la seguivano. Oh, gridò Jane mentre turbinava oltre il ramo di un olmo. Che sensazione deliziosa! Mi sembra di essere fatto d'aria, disse Michael, mentre sbatteva contro una panchina del parco e rimbalzava. Che modo piacevole di andare a casa! Oh, ehi! Gridarono i gemelli, ballonzolando insieme. Di buon passo, per favore, e non perdete tempo, intimò Mary Poppins, e si volse a lanciare un'occhiata severa da sopra la spalla. Sorpassarono la casa del guardiano del parco e imboccarono il viale dei cedri. Il gentiluomo era là, che proseguiva, ballonzolante davanti a loro. Michael si volse un attimo a guardare indietro. Guarda, Jane, guarda, tutti ne hanno uno. Ella si volse e a distanza un gruppo di gente, ognuno con un pallone, ballonzolava su e giù nell'aria. L'uomo dei gelati ne ha comprato uno, disse con gli occhi tondi per la meraviglia, mentre evitava per puro caso di andare a sbattere contro una statua. Sì. E anche lo spazzacamino. E là, vedi? La signorina Lark. Attraverso il prato avanzava rimbalzando una figura nota, con guanti e cappello, sospesa a un pallone su cui era scritto il nome Lucinda Emilia Lark. A attraversò il viale degli olmi con aria piena di dignità e scomparve dietro una fontana. Intanto tutto il parco si era riempito di gente e ciascuno aveva un pallone con il proprio nome e rimbalzava in aria. «Oilà, fate largo all'ammiraglio! Oilà, dov'è il mio porto?» gridò una grossa voce da marinaio, mentre l'ammiraglio Boom e la sua signora roteavano per l'aria. Tenevano il filo di un grande pallone bianco su cui era scritto il loro nome a caratteri blu. «Alberi e timoni, granchi e aragoste, ammainate le vele!» tuonò l'ammiraglio Boom, evitando con cura una grossa quercia. Il numero dei palloni e della gente aumentava. Non c'era un palmo d'aria che non fosse occupato. Jane e Michael scorgevano Mary Poppins farsi strada altezzosamente e anch'essi sgusciavano in fretta tra la folla con Giovannino e Barbara alle calcagna. «Oh, povera me, povera me! Il mio pallone non vuole alzarsi! Devo aver scelto proprio quello sbagliato!» disse una voce all'altezza del gomito di Jane. Una vecchia signora dall'aria accigliata, con una penna sul cappello e un boa di piume intorno al collo, stava sul sentiero proprio sotto a Jane. Ai suoi piedi giaceva un pallone scarlato sul quale era scritto a caratteri d'oro «Primo ministro». «Che devo fare?» esclamava. «La vecchietta presso i cancelli mi ha detto...» «Fate la vostra scelta e fatela con comodo, mia cara anatroccola!» «E io così ho fatto, ma ho scelto il pallone sbagliato, non sono il primo ministro!» «Scusatemi, ma sono io!» disse una voce al suo fianco, mentre un uomo alto, vestito con molta eleganza, con un ombrello chiuso in mano, si fermava accanto a lei. La signora si voltò. «Oh, allora questo è il vostro pallone! Lasciatemi vedere se voi avete il mio!» Il primo ministro, il cui pallone non si sollevava affatto da terra, glielo mostrò. Il suo nome era Gentildonna Carolina Valsecchi. «Sì, è questo! Abbiamo scambiato i nostri palloni!» ella disse, e porse al primo ministro il suo pallone. Ed ecco che immediatamente si sollevarono entrambi da terra e, volando tra gli alberi, si allontanarono chiacchierando. «Siete sposato?» domandò la Gentildonna Carolina Valsecchi. E il primo ministro rispose: «No, non riesco a trovare il giusto tipo di signora di mezza età, non troppo giovane, non troppo vecchia e piuttosto allegra, poiché io sono troppo serio». «Farei al caso vostro?» domandò la gentildonna Carolina Valsecchi. «Ho un carattere molto allegro». «Ah, sì, credo che andreste proprio bene», rispose il primo ministro, e mano nella mano raggiunsero la folla sospesa. Intanto il parco si era affollato ancora di più. Jane e Michael, saltando sui prati dietro a Mary Poppins, urtavano continuamente contro altre figure sospese che avevano comperato palloni dalla vecchietta. Un uomo alto, con lunghi baffi, in abito blu ed elmetto, era trascinato in aria da un pallone su cui era scritto «Ispettore di polizia», e un altro, con la parola «sindaco», trasportava un grosso signore rotondo con tricorno, soprabito rosso e un grosso collare d'ottone. «Circolare, per favore! Non affollate il parco! Osservate i regolamenti! Tutti i rifiuti devono essere gettati negli appositi cesti per le immondizie!» Il guardiano del parco, brontolando e protestando, si faceva largo tra la folla e si teneva sospeso ad un palloncino color ciliegia su cui era scritto F Bianchi. Con un gesto della mano spingeva avanti due cani, un bulldog sul cui pallone era scritto Q e un fox terrier il cui nome doveva essere Albertina. «Lasciate stare i miei cani, altrimenti prenderò il vostro numero e farò rapporto», gridò una signora che il pallone denunciava come essere la duchessa di Cornovaglia. Ma il guardiano del parco non le badò e proseguì penzoloni, gridando: «Tutti i cani al guinzaglio, non affollate il parco, vietato fumare, osservate i regolamenti», finché ebbe la voce roca. «Dov'è Mary Poppins?» domandò Michael, passando rapidamente accanto a Jane. «Là, davanti a noi», ella rispose, e con il dito indicò l'altezzosa, rigida figura appesa all'estremità del più grosso pallone del parco. E la seguirono per la strada che conduceva a casa. «Palloni e palloni, miei cari anatroccoli!» gridò dietro a loro una voce roca. Si volsero e videro la vecchietta. Il suo vassoio era vuoto e non c'era alcun pallone intorno a lei. Malgrado ciò, ella volava lo stesso, come se centinaia di palloni invisibili la trascinassero in alto. «Tutti venduti!» li informò passando loro accanto. «C'è un pallone per tutti, basta saper scegliere! Hanno fatto la loro scelta e l'hanno fatta con comodo! Li ho venduti tutti, palloni e palloni!» Le sue tasche tintinnavano mentre volava in su e Jane e Michael videro la piccola figura grinzosa oltrepassare gli altri palloni volanti, oltrepassare il primo ministro e il sindaco, Mary Poppins e Annabella, finché divenne ancora più piccola e la donna dei palloni scomparve in lontananza. «Palloni e palloni, miei cari anatroccoli!» La debole eco giunse fino a loro, portata dall'aria. «Allungate il passo, per favore!» intimò Mary Poppins. Le si riunirono attorno tutti e quattro. Annabella, cullata dal movimento del pallone di Mary Poppins, le si strinse più accosto e si addormentò. Il cancello del numero 17 era aperto, la porta d'ingresso spalancata. Mary Poppins, con aria altezzosa e sempre sospesa al pallone, infilò abilmente la porta d'ingresso e si avviò su per le scale. I bambini la seguirono a salti e rimbalzi e dopo che ebbero raggiunto la porta della loro stanza, le loro quattro paia di piedi poggiarono rumorosamente a terra. Mary Poppins invece atterrò senza il minimo rumore. «Oh, che bel pomeriggio!» esclamò Jane, correndo ad abbracciare la governante. «Beh, più grazioso di quanto sia tu in questo momento. Pettinati, per favore, non mi piacciono gli spaventapasseri», disse burbera Mary Poppins. «Mi sento io stesso come un pallone», osservò Michael giocondamente. «Libero, aereo, fatato!» «Compiangerei la fata che ti somigliasse», lo burlò Mary Poppins. «Va a lavarti le mani, sei peggio di uno spazzacamino!» Quando furono di ritorno, puliti e ordinati, i quattro palloni stavano contro il soffitto con i fili saldamente ancorati al quadro sul caminetto. Michael li fissò. Il suo giallo, quello blu di Jane, quello rosa dei gemelli e quello rosso di Mary Poppins. Non c'era un alito di vento. Leggeri e luminosi, immobili nell'aria, poggiavano contro il soffitto. «Mi domando», mormorò piano Michael quasi a se stesso. «Cosa ti domandi?» chiese Mary Poppins, tirando fuori i suoi pacchetti. «Mi domando se tutto ciò sarebbe accaduto se tu non fossi stata con noi». Mary Poppins arricciò il naso. «Io?» ella replicò. «Mi domando piuttosto se tu non ti domandi troppe cose». E Michael si dovette accontentare di questa risposta.